Se vi accomodate, vorrei suggerire al vostro cuore due pensieri di riflessione, anche se la morte è una maestra che raramente noi stiamo ad ascoltare, anche perché è una maestra severa, ma è una maestra vera. Mi rivolgo dunque ai figli, ma mi rivolgo anche a tutti i presenti. Io spero che i più giovani non abbiano ancora provato la perdita di un papà o di una mamma, ma chi di noi l'ha provata sa che non c'è un dolore simile a questo. Puoi partecipare a tanti funerali, ma quando il tuo papà o la tua mamma se ne vanno per sempre, tu provi un dolore che non hai mai provato nella tua vita, capisci cosa vuol dire quella parola che magari si dice ma non si capisce, essere orfani, cioè privi. Io penso dunque che la morte e un funerale è come una grande linea di separazione tra il prima e il dopo. Non è più la stessa cosa. E io vi suggerisco di essere capaci di guardare in entrambe le direzioni, di guardare indietro al passato e di guardare anche in avanti al futuro. Credo che sia importante guardare indietro e tenere viva la memoria, questa grande realtà umana, che è come la gratitudine del nostro cuore. Un figlio o una figlia di fronte alla mamma o al papà che perde per sempre deve conservare la memoria umana e cristiana di quello che è stata la vita accanto a quest'uomo, a questa donna. Una memoria umana, anzitutto. Credo che al mondo non ci sia niente che possa paragonarsi all'amore che una madre che ha verso i figli, e probabilmente voi che poi con l'età siete diventati figli, siete diventati genitori, chi lo è diventato, l'ha capito dopo che cosa vuol dire quell'amore verso un figlio. Ebbene, tuo papà, tua mamma, i nostri genitori l'hanno avuto per noi. E allora conservare tutta la storia con cui loro ci hanno insegnato a diventare grandi, a diventare uomini, a diventare donne, veramente la prima scuola di vita è la tua famiglia, è la tua casa. Per questo la Chiesa continua a sostenere la grandezza della famiglia e purtroppo mi sembra che sia rimasta un po' sola a sostenere l'importanza della famiglia. Dunque suggerisco a tutti noi di guardare al passato, di riportare alla mente la mia mamma diceva, mio papà diceva, mi ha insegnato che. Questo vale anche da un punto di vista cristiano, amici. Poi uno diventa grande, fa le sue scelte o le sue non scelte, fino ad arrivare a non battezzare i propri figli, anche se uno è stato battezzato, fino ad arrivare a passare tutta una vita con un uomo e una donna senza il matrimonio, fino a tutti i rapporti con i parenti, magari mantenerli o romperli. Ma dobbiamo tenere presenti gli insegnamenti cristiani ricevuti. Io non mi fermo in un pensiero di funerale a dover fare una predica lunga, ma prendete un solo aspetto, il pregare. Il pregare che ti ha insegnato la tua mamma, la tua nonna, per esempio le classiche preghiere del mattino e della sera, ci sembrano una cosa da poco, ma sono una cosa grande, amici. Io ho provato ad andare a trovare delle persone all'ospedale e mi dicono: ma guardi, papà, dicevano, è in coma profondo, non sente niente. Ora, siccome io ho sentito dal cappellano d'ospedale che l'ultimo senso che abbandona il moribondo è l'udito, mi sono chinato all'orecchio di quest'uomo e gli ho detto: Massimiliano, sono Don Ambrogio, vogliamo dire un'Ave Maria insieme? E io gli ho detto all'orecchio l'Ave Maria, e i suoi parenti con stupore hanno detto: guarda, cerca di muovere le labbra. Dicevano che era in coma profondo, dicevano tutto, ma quella preghiera che aveva imparato dalla sua mamma, che era dentro il suo cuore, è morto dopo poche ore. Tentava di ripeterla, amici. Insieme a questo io vi suggerisco, spero che i vostri genitori l'abbiano insegnato, il rispetto per i defunti, andare al cimitero, mantenere in ordine le tombe, portare i nipotini al cimitero. Non abbiamo paura, amici. Queste sono solamente due tracce per il passato. Ma dobbiamo con la morte anche proiettare lo sguardo sul futuro. E quello che abbiamo imparato umanamente dai nostri, cercare di viverlo nella nostra vita futura. Io mi auguro che nessun figlio abbia avuto cattivo esempio dai genitori. Purtroppo alcune volte può anche capitare, disgraziatamente. E tuttavia anche da un genitore si può sempre ricavare qualche cosa che possa servire di bene per il futuro, soprattutto da una mamma. E cercare nel nostro futuro di restare fedeli a quei valori umani che abbiamo imparato in casa. E restare fedeli anche a quei valori cristiani che abbiamo imparato in casa. La morte non tronca i rapporti e noi dovremmo tener presente anche di mantenerli ancora con i nostri, io non li chiamo i nostri morti, io li chiamo i nostri diversamente vivi, e pregare per loro. Tante volte la gente mi dice: Reverendo, ma lei pensa che i nostri morti ci ascoltino, ci vedino? Ma certamente. Qualche altra persona arriva a dirmi: lei crede che i morti possano aiutarci? Certissimamente, guardate. Io ho presente una testimonianza che ho raccolto direttamente dalla persona che mi diceva: Don Ambrogio, lei mi ha visto in carrozzina, mi ha visto che stavo andando verso la fine della mia vita, adesso mi vede che vado ancora in montagna a camminare. Sa cos'è successo? Che una notte mi appare in sogno mio papà e mi dice: devi smettere di prendere quella medicina. Me l'ha detto due volte, dice, ma ha fatto il nome della medicina. E questa donna, risvegliandosi, dice: ma smette di prendere quella medicina, e guarisce, si disintossica, lascia la sedia a rotelle e si mette ad andare ancora in montagna. Un caso più chiaro di questo, in cui tuo papà, dalla vita eterna, non smette di amarti e addirittura ti salva la vita, un caso così per me è straordinario. Preghiamo per i nostri morti, cari amici. Preghiamo per loro e loro pregheranno per noi, perché l'amore che abbiamo avuto su questa terra non finisce. E l'amore tra dei genitori e dei figli è forse la cosa più grande tra le persone, perché tra i 10 comandamenti un solo comandamento parla delle persone, ed è il quarto: onora il padre e la madre. Tutti gli altri comandamenti, non commettere, non rubare, non desiderare, non, questo ti dice onora tuo padre e tua madre. E adesso che sono nell'eternità non lasciamo mancare mai la preghiera per loro, e pensando alla loro vita e al loro passaggio alla vita eterna, cari cristiani, pensiamo qualche volta anche alla nostra morte. Voi direte, solo i preti hanno questo fegato di parlarci della morte. Nessun altro ha il coraggio di parlarci della morte. Ma il sacerdote ti dice, ricordati, uomo, che sei polvere e polvere ritornerai. Ma se questo avviene nel ricordo amorevole dei nostri cari, ma se questo avviene nel ricordo del Vangelo che abbiamo letto oggi, Gesù pregava dicendo, Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché vedano la mia gloria. Gesù ci vuole portare in paradiso. Quelli che mi hai dato voglio che siano con me dove sono io. Lo so, amici, anch'io vivo dentro nel mondo, anch'io sento tanti discorsi della gente, ma che ci sia il paradiso, lo dite voi preti, è il vostro mestiere. No, non è il nostro mestiere, è la nostra speranza. Tu sei libero di pensare che finita la vita sia terminato tutto. Sarebbe una cosa ben triste che l'amore che tu hai conosciuto, che hai costruito con i tuoi genitori o con i tuoi figli, con la tua morte finisca tutto. Il Signore ti dice, questo amore purificato viene conservato e i tuoi li rivedrai nel paradiso. Amici, vi dico, pensiamo alla morte non per spaventarci, ma per ricordare i nostri cari e per ricordare il nostro destino futuro guardando in faccia Gesù. D'altra parte, questa mamma ormai è davanti a Gesù. Se noi siamo qui a pregare per lei, perché riteniamo che lei sia spiritualmente ancora viva, e questo sarà anche il nostro destino.